Grazie, concerto evento a Lucca, Puccini secondo Muti, un'accurata selezione dei capolavori del compositore da Tosca, Madame Butterfly, nell'ambito delle celebrazioni pucciniane, come stiamo per vedere in questo servizio di Lisa Marzoni. State le meravigliose mura storiche di Lucca a fare da sfondo alle prime note di Madame Butterfly nel concerto evento Puccini secondo Muti. 120 musicisti dell'orchestra Cherubini, diretti dal maestro Riccardo Muti, hanno omaggiato il grande compositore lucchese, autore di opere come Tosca, la Turandot e la Bohème. Proprio a Lucca Puccini iniziò timidamente a suonare l'organo in chiesa per contribuire all'economia della famiglia dopo la morte del padre, poi tanto studio e il successo meritato. Dal suo genio sono scaturite opere considerate fondamentali per il repertorio dell'opera, sempre pronto a sorprendere il pubblico, talvolta disorientandolo con novità stilistiche, fu molto amato e acclamato anche in vita. Nel centenario della sua morte è giusto rendere omaggio a questo grande compositore della musica che ha segnato la storia della musica mondiale.